prima edizione. 16 minuti, non potevamo non dedicare la copertina di prima edizione di questa mattina ad un'altra grande della musica che se ne va, è Donna Summer, regina della disco music anni 70. Ha perso la sua battaglia contro il cancro. La Summer non voleva che si diffondesse la voce della sua malattia, stava tentando di ultimare un album al contrario. Una voce indimenticabile, così il presidente americano Barack Obama nella notte l'ha ricordata, esprimendo tristezza per la morte della cantante. L'industria della musica ha perso una leggenda troppo presto. E allora il traffico, tra poco i giornali di oggi. Prima edizione. Rigore crescita, accordo europeo, ecco l'apertura questa mattina del Sole 24 Ore che ci porta già al centro di quella che sarà la notizia delle prossime ore, soprattutto del fine settimana, vale a dire il G8 negli Stati Uniti. Ieri c'è stata una videoconferenza, Monti, Merkel, Hollande, Cameron, Van Rompuy, Barroso, i leader europei ora sono in volo verso gli Stati Uniti, lo è anche il presidente del Consiglio italiano Mario Monti, che in questi minuti è su un aereo diretto negli Stati Uniti per parlare di crisi e di come far decollare nuovamente l'Europa. Rigore, crescita, accordo europeo, questo è il titolo, dicevamo, del Sole 24 Ore, con diversi commenti sul rilancio europeo, due in particolare. Alessandro Merli scrive: ultima chiamata per crescere. Giacomo Vacciagola: produttività, non il debito, è il vero freno. Di sicuro la crescita e il rilancio della produttività in Europa saranno i temi al centro del G8 e ancora sul Sole 24 Ore vediamo che intanto c'è ancora tensione sui mercati con l'euro ai minimi, una giornata nera ieri per Piazza Affari, ve l'abbiamo già detto, oggi hanno aperto davvero male le borse asiatiche che perdono attorno ai 2,5% l'indice Nikkei in questo momento, anzi ve lo do subito, -2,54%. Così l'apertura del Sole 24 Ore, aperture più o meno sullo stesso tenore per altri quotidiani. La Repubblica è leader dell'Unione Europea insieme a rigore e crescita, pressing sulla Merkel. Il Fondo Monetario spinge la BCE ad abbassare i tassi per cercare di rilanciare la crescita. Il Messaggero, crisi, pressing appunto sulla Merkel, conferenza tra i leader europei, puntare insieme a rigore e crescita. La Stampa, crisi, l'Europa prende tempo, vertice telefonico, rigore e crescita, ma intanto le nuove misure slittano, ci ricorda la Stampa. Questo è sostanzialmente il tema che domina le prime pagine dei quotidiani, ma sul Corriere della Sera tutto questo si aggiunge un altro tassello che però preoccupa direttamente l'Italia, perché, scrive il Corriere della Sera, i leader europei promettono rigore e crescita insieme, ma per l'IMU mancano 2,5 miliardi. I sindaci, notizia che pubblica oggi il Corriere della Sera, stimano che il governo dovrà alzare l'aliquota, quindi le stime che tutti noi abbiamo fatto su quello che dovremo pagare di IMU sono già al ribasso. Il gettito dell'IMU rischia di essere inferiore di 2,5 miliardi rispetto alla vecchia ICI. I sindaci stimano che il governo dovrà alzare le quote, così scrive oggi il Corriere della Sera, che riporta l'allarme dei sindaci e i conti sul fatto che tutto in realtà costerà molto più di quanto fino ad ora è stato stimato, non solo dal governo ma anche da ciascuno di noi per le proprie tasche. Così il Corriere della Sera. Corriere della Sera che a centro pagina invece mette la questione politica principale della giornata di ieri per quanto riguarda l'Italia: corruzione, pene più pesanti. Che è successo? Che il PD fa passare il suo testo e salta il tavolo del confronto. Così il disegno di legge anticorruzione in Commissione Giustizia alla Camera ha approvato un emendamento del Partito Democratico che aumenta le pene per il reato di corruzione e è scoppiata la bufera. Alfano attacca Bersani, leggiamo ancora dal Corriere della Sera, cerca l'incidente contro il governo. Tema questo che trovate anche sugli altri quotidiani, in evidenza qui, in evidenza anche sul Messaggero, lite sull'anticorruzione, il PDL e governo a rischio. Il tema lo trovate anche questo un po' dappertutto a centro pagina su il Corriere della sera. Centro pagina del Sole 24 Ore invece è un'altra questione che riguarda le tasche degli italiani, le ipoteche. Si va verso tetti più alti, allo studio nuove misure solo per debiti superiori a 20.000 euro per tutti gli immobili, e Monti, che ieri è stato ad Equitalia, che dice pagare le tasse è un dovere, solo poi possiamo ridurle. Così ieri Monti, che ha portato la solitaria del governo ai dipendenti delle Entrate e di Equitalia. Altre notizie di oggi, centro pagina della Repubblica, dedicata ad un altro tema, vale a dire alle protezione civile. Terremoti, alluvioni, lo Stato non paga più, scrive la Repubblica. Danni risarciti solo con assicurazioni. E su per la benzina torna la tassa sulle catastrofi, quella che è già stata ribattezzata la tassa sulla disgrazia. In caso di terremoto, alluvione, di ogni altra catastrofe naturale, lo Stato non pagherà più i danni ai cittadini. Secondo il decreto, in caso di calamità naturali, le risorse dovranno arrivare dall'aumento delle accise sulla benzina. Quindi verrà pagato con la benzina la protezione civile, o perlomeno in stati di calamità non ci saranno più dei fondi ad hoc, come è stato fino ad ora, taglio centrale della Repubblica. Altre notizie di oggi dalla Stampa: i nuovi nati bianchi diventano minoranza. Ecco la svolta per gli Stati Uniti. Il sorpasso cambia la fotografia dell'America che conosciamo. Lo spagnolo minaccia ormai l'inglese. Negli Stati Uniti nascono meno bimbi bianchi che bimbi di altre colorazioni. Un storico sorpasso: i neonati non bianchi negli Stati Uniti sono il 50,4%, un trend demografico destinato a segnare gli equilibri anche politici dell'America di domani. E se così va negli Stati Uniti, stessa notizia, foto notizia anche per il Corriere della Sera oggi in prima pagina, che però ci ricorda anche un altro tassello, perché se così cambia il mondo negli Stati Uniti, in Italia invece che succede? Sotto esame c'è l'età della classe dirigente italiana. L'età media 59 anni, è la più vecchia d'Europa. La maggior parte saranno già in pensione quando la crisi sarà finita. Riprendiamoci i nostri giovani, scrive Dario Di Vico, a guidare l'Italia, una generazione ormai vecchia. L'età media 59 anni. E poi invece dal Messaggero, taglio centrale, ancora le vicende delle scommesse nel mondo del calcio. Il pareggio è fatto, ecco le accuse a Conte, l'interrogatorio dell'ex Carobbio su Novara Siena. Ne vengono fuori anche responsabilità dell'attuale tecnico della Juventus, che all'epoca dei fatti guidava la squadra toscana. Così il racconto del pentito. Il pareggio è fatto, ecco le accuse anche a Conte. Taglio basso della Repubblica. Ho tempo ancora per l'ultima segnalazione, poi vi lascerò come sempre alle 7:20 Alessandro Milan a una lettura più approfondita dei quotidiani. Stoner, scendo dalla moto, a 27 anni preferisco vivere. Casey Stoner lascia, non uno qualsiasi, ma il più grande pilota degli ultimi 6 anni, il 27enne che da solo sapeva risollevare l'intero movimento, generando bellezza e rivoluzione tecnica ad ogni piega, crescendo ad ogni intermedio per qualità, autorevolezza, gesto e arte. Scende dalla moto a 27 anni, dice: io preferisco vivere. Così sulle pagine dei quotidiani. Come dicevo, ci torneremo più avanti, però è venerdì, allora parliamo anche d'altro, perché magari qualcuno di voi pensa ad una gita e magari pensa di andare al mare, naturalmente tempo permettendo. E allora, questa settimana sono state assegnate le bandiere blu alle migliori località di mare italiane, 246 quest'anno, con la Liguria in testa, che se n'è guadagnata più di tutti gli altri. Ma c'è sempre qualche ma. Sotto ad essere state premiate sono le spiagge meglio attrezzate e pulite, ma ad avanzare qualche riserva il Consiglio Nazionale dei Chimici, il presidente Armando Zingales, al microfono di Laura Bettini.

Ad accogliere invece le navi della legalità il 23 a Palermo gli studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone dello ZEN. Il preside Domenico Di Fatta. Ma guardi, intanto è proprio fresca l'ultimo raid vandalico compiuto tra il 27 aprile e il 1 maggio. Hanno proprio sfregiato il mezzo busto in marmo di Giovanni Falcone che è posto all'ingresso della scuola. Hanno rotto completamente, polverizzato il naso e hanno scarabocchiato i baffi. A questo noi rispondiamo perché insieme con l'Accademia delle Belle Arti di Palermo si provvederà al restauro che sarà fatto degli studenti e i nostri alunni parteciperanno a questo laboratorio assistendo quindi al recupero di quello che qualche stupido ha voluto distruggere e rovinare. Ecco, lei parla di ennesimo episodio, quindi vuol dire che ce ne sono stati molti altri. Che cosa succede nella sua scuola? Ma succede che probabilmente proprio per questo voler fare rispettare la legalità magari diamo fastidio a qualcuno, perché poi il tentativo di far stare i ragazzi a scuola significa allontanarli dalla strada dove gira e rigira inevitabilmente finiscono nelle mani della criminalità. Era la prima edizione di Italia in controluce, questa come tutte le puntate in podcast su radio24.it. Per comunicare con noi usate Facebook, pagine gruppo, Twitter, il blog sul sito della radio, la mail controluce@radio24.it. Ed eccoci alla seconda parte di prima edizione, 6:40 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Parliamo di terrorismo perché dopo la gambizzazione di Genova e gli attentati ad Equitalia, con oggi scatta ufficialmente il piano antiterrorismo, 14.000 siti a rischio, 550 persone da scortare, così ha deciso il Viminale. Ieri all'incontro con Befera è arrivata la condanna di Monti ai ripetuti attacchi alle società di riscossione, oggi a Napoli però ci sarà un'assemblea pubblica dei movimenti locali contro Equitalia. E allora noi vi facciamo ascoltare alcune testimonianze. Sono Massimo Coco, figlio del procuratore generale di Genova Francesco Coco, il primo giudice ucciso dalle BR l'8 giugno del 1976. Ancora Sabina Rossa, figlia di Guido Rossa, il sindacalista ucciso il 24 gennaio 1979. Poi ancora Rosi Bindi, vicepresidente della Camera, e Marta Vincenzi, ormai ex sindaco, quasi insomma, di Genova, erano in piazza ieri. Sappiamo molto bene, conosciamo molto bene queste sensazioni, questo dolore, questo tipo di emozioni. Molti dei miei colleghi d'associazione portano ancora i segni nel corpo, le ferite non solo del trauma, ma anche dell'invalidità permanente di quegli anni. Io penso che nessuno oggi possa e debba assolutamente sentirsi risarcito da chi in qualche modo si muove in una logica di violenza, però allo stesso tempo devono essere garantiti gli spazi per quelle che sono il possibile esercizio del possibile dissenso, deve essere consentito al sindacato l'esercizio del conflitto sociale, e credo che entrambe queste cose debbano essere presenti. Quello che è accaduto a Genova, ma soprattutto la lettura del comunicato, questa sorta di quasi gusto, piacere nell'usare la violenza, ci deve spingere tutte le istituzioni, la magistratura, le forze di polizia, a fare indagini vere, forti, a intensificare l'intelligence, ma soprattutto a intensificare la reazione popolare, che è quella che conta di più. Siamo qui per tanto stringerci intorno a Roberto Adinolfi, alla sua famiglia, a tutti i lavoratori dell'Ansaldo, e per dire che Genova, che ha provato altre volte la violenza politica e ha saputo riconoscerla e ha saputo prendere le distanze, saprà farlo anche questa volta. E naturalmente massima attenzione per quel che accadrà oggi intanto a Napoli. Ma c'è già chi è in piazza, chi lo sarà soprattutto domani quando inizierà il G8 anche in Europa, il cosiddetto movimento anticapitalista, il Blockupy, in piazza in Europa, in Germania, non a caso a Francoforte. Ci sono già state però alcune manifestazioni non autorizzate ben prima dell'inizio del G8, ieri sera sono scattati anche degli arresti, tra cui anche italiani. Cerchiamo però di capire che succede, Katia Caramelli. Sì, buongiorno. Mentre i grandi, Anna della Terra, come dicevi tu, nel fine settimana si riuniranno a Camp David per il G8, a Francoforte, che è la sede della Banca Centrale Europea, va in scena la protesta. Il movimento Occupy è arrivato anche in Germania e ha l'obiettivo di bloccare i lavori del distretto finanziario. 4 giornate di mobilitazione fino a domani, quando ci sarà poi la manifestazione conclusiva, che è l'unica autorizzata, per la quale sono attese in città migliaia di persone da tutta Europa. Molti i nostri connazionali già arrivati, si tratta di una delle delegazioni più numerose. 45 ieri sono stati fermati dalle forze dell'ordine, ma già sono stati rilasciati. Per i nostri connazionali fermati, la polizia ha comunque disposto l'allontanamento dall'area cittadina di Francoforte fino alle 7 di domani mattina. Ma che cosa era successo? La polizia aveva controllato ieri poco fuori dalla città 3 autobus diretti a Francoforte con 150 persone a bordo, vietando l'ingresso fino a sabato, una sorta di fermo preventivo dunque, non legato a specifici episodi di violenza. Alcune persone hanno però deciso di proseguire, hanno tentato lo stesso di raggiungere Francoforte e dunque sono state fermate. 150 in tutto i fermi, tra questi abbiamo detto 45 nostri connazionali però già rilasciati. Grazie a Katia Caramelli. Nel frattempo Monti, ricordiamo, è già in volo per Washington, ne parleremo nel corso della giornata. E la notizia di oggi, Facebook oggi che va in borsa, quanto valgono le nostre vite? Nella notte è stata decisa la cifra, 104 miliardi di dollari. Prima edizione. Semplice, niente Disneyland, niente ragazze nude in chat, però guarda, che scrivi? Situazione sentimentale, mi piacciono. È questo che smuove la vita. Facebook oggi va in borsa, esordirà alle 11 americana, alle 17 ore italiane, prezzo fissato nella notte $38 per azione, vale 104 miliardi di dollari, visto che tutti i 421,2 milioni di titoli sono stati già venduti. È questo il valore delle nostre vite online? La domanda ovviamente è provocatoria, ma io la giro al nostro ospite di questa mattina, sociologo Guido Martinotti. Buongiorno. Buongiorno. Che effetto le fa? Già tutti venduti i titoli, 104 miliardi di dollari, per sapere gli affari nostri. Beh, va bene, non è mica un prezzo troppo alto, no? Per un po' di narcisismo a livello mondiale, credo che mi sembra sia un prezzo ragionevole. Sono tantissimi che usano questo strumento e ci si divertono anche. È giusto quotare. Speriamo queste cose. Ecco, l'unico problema è sapere se il titolo terrà o no. Ecco, perché sarà una bolla, questa è davvero la domanda. E Facebook sarà una bolla secondo lei? Si sgonfierà, come dice qualcuno, una volta incassato? Ma no, dunque, io distinguerei il titolo imprevedibile, non possiamo dirlo, si sa come vanno queste cose. Probabilmente rimarrà per un bel po'. E il fenomeno? Il fenomeno no, continuerà, poi avrà le sue trasformazioni. Lo stesso Facebook è in un certo senso una trasformazione di MySpace, che ormai è quasi scomparso, ma insomma l'idea iniziale era quella di MySpace. Poi è venuto Facebook, adesso ci sono competitori tipo Twitter, che però poi dopo uno può anche mescolare con Facebook. Questa macchina è una macchina estremamente creativa, mi sembra che la macchina informatica è una buona metafora del genere umano, perché il genere umano è caratterizzato da individui con un grande cervello, un grandissimo cervello. Noi abbiamo il più grande, in termini anche di coordinamento, non solo di peso, cervello di tutte le specie che vivono sul pianeta, che ha, e questa è la caratteristica del genere umano, ha rapporti intensi e continui con altri individui con un grande cervello. Il prodotto è questa enorme creatività che ha il genere umano. Facebook non è altro che un grande cervello. Il fatto che tutto questo diventi remunerativo, sta nei fatti. Viviamo in un sistema capitalistico, mi sembra che questo sia una cosa non mi stupisce, ecco, non mi sorprende, anche in un certo senso mi fa piacere, perché la remunerazione è anche un riconoscimento di qualche qualità, no? Non vedo perché. Noi siamo in un sistema di mercato, io non sono particolarmente liberista, però riconosco che siamo in un sistema di mercato, e quindi il mercato diventa un buon giudice del successo di un'azione. Per me va bene, insomma. 104 miliardi di dollari, allora insomma questo sulla carta quanto valgono le nostre vite. Alle 17 il collocamento in borsa. Grazie intanto per questa chiacchierata, Guido Martinotti, sociologo. Buona giornata, buon venerdì anche a lei. Buon venerdì anche a tutti i nostri ascoltatori. Prima edizione termina qui, ci risentiamo tra poco con GR24. Buona giornata.